America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. This all dates back to when we were growing up together in Kenya. Yeah. And we had, you know, constant run-ins on the soccer field. Yeah. And, yeah. Barack Obama, spiritoso Barack Obama, devo dire, è stato bravissimo al Tonight Show di Jay Leno l'altra sera e ha preso in giro Donald Trump sulla famosa donazione di 5 milioni di dollari che Trump avrebbe fatto alla non profit favorita di Barack Obama se il presidente avesse reso pubblici entro il 31 ottobre il suo passaporto, la sua richiesta per il passaporto americano, la sua richiesta di iscrizione all'università. E allora Lino dice, ma scusi, dice, ma come mai ce l'ha così con lei questo Donald Trump? E allora Obama risponde, dice, ma dice, tutto risale a quando eravamo insieme ragazzini in Kenya. E lì naturalmente il pubblico è scoppiato a ridere, che immaginare Donald Trump in Kenya era comunque piuttosto buffo. Dice, sa, dice Obama, giocavamo a calcio e lui non è che fosse così bravo e quindi se l'era presa con me perché io ero molto più bravo di lui a calcio. Poi siamo venuti tutti e due in America e io pensavo che a quel punto fosse finita, invece no. Dunque Barack Obama ha risolto questa situazione che poteva essere imbarazzante nel modo più classico, sdrammatizzandola, ed è stato, vi ripeto, dal mio punto di vista bravissimo. Ma perché vi ho proposto questa battuta? Perché, come vedete, il non profit, che è uno degli elementi essenziali della cultura e dell'economia anche americana, la filantropia, le donazioni, sono entrate nel dibattito elettorale americano in modo diretto con questa proposta di Donald Trump, che era così una proposta più provocatoria che altro, ma anche perché in dibattito elettorale, quello di lunedì, se ne è parlato. In terms of bringing down deductions, one way of doing that would be to say everybody gets $25,000 of deductions and credits, and you can decide which ones to use. Ecco, questa è una risposta di Mitt Romney a una delle domande durante il dibattito presidenziale. Riguardava le deduzioni che Romney avrebbe voluto eliminare per compensare i tagli delle tasse previsti dal suo piano. E la risposta di Romney è stata, beh, per quanto riguarda le deduzioni, una via potrebbe essere quella di dire, ad esempio, che a ognuno spettano $25,000 di deduzioni e crediti e basta, e che può poi decidere come usarle per esempio per dedurle dal mutuo, per le donazioni e così via, così via. Ecco, il fatto che lui abbia automaticamente ridotto l'ammontare che un contribuente fiscale americano può dedurre dal suo reddito per donazioni, che ha scatenato una piccola polemica e soprattutto preoccupazioni. Perché? Perché il settore filantropico americano poggia su un credo assoluto. Il 100% delle donazioni possono essere dedotte dal reddito. E dunque questa posizione di Romney, stranamente, viene tra l'altro da un repubblicano, va a colpire direttamente nel cuore di quello che è stato il funzionamento del meccanismo delle non profit in America. Il tema è molto forte, è un tema che riguarda noi e di questo voglio parlare qui con me ai microfoni di America 24 con Letizia Moratti, che ha ritirato un premio al NIAF, che è di passaggio a New York in questi giorni, sta per ripartire per Milano. Buongiorno signora Moratti. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, voi. Intanto un commento a caldo, ma sarebbe una rivoluzione se si mette mano alla non profit americana? Sarebbe molto negativo rivedere la deducibilità fiscale per il settore no profit, perché il settore no profit americano è un settore che contribuisce per il 3,1% al PIL americano. Per darle la differenza, il settore italiano, che pure dà lavoro a 650.000 persone, che rappresenta 67 miliardi di euro, rappresenta lo 0,7 del PIL. Buona parte di questa differenza, non tutta, ma buona parte è data anche dalla diversa deducibilità, che in America è al 100%, in Italia non arriva scarsamente fino al 5%. Ci racconti un po' qual è il confronto tra quello che sta succedendo a San Patrignano, che insomma è il suo brainchild in qualche modo, e un confronto con un equivalente americano? Ma San Patrignano si può definire un'impresa sociale, è una comunità di recupero di ragazzi emarginati tossicodipendenti che da oltre 30 anni ha accolto con successo gratuitamente oltre 20.000 persone, con un tasso di successo certificato dall'Università di Bologna, Urbino e Pavia, dell'oltre 70%, e ha fatto risparmiare allo Stato solo per per la parte di pene alternative al carcere in questi 25 anni, quindi da quando abbiamo la convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia, oltre 300 milioni di euro. 300 milioni di euro risparmiati. Beh, mi sembra una cifra che da sola dovrebbe dare delle motivazioni per riformare qualche cosa in Italia, o sbaglio? Assolutamente sì. Il ragionamento che si deve fare in questo momento in Italia è se si possono utilizzare degli strumenti nuovi, magari guardando a modelli americani che ci sono, che consentono allo Stato di non farsi più carico di servizi sociali che non è più in grado di sostenere, e consentono al mondo del no profit, attraverso questi strumenti e questi modelli diversi, di dare un contributo alla risoluzione di problemi appunto sociali. L'America è avanti a anni luce. Ci dica quali sono, secondo lei, le esperienze più avanzate a cui noi potremmo fare riferimento. Ci sono due esperienze che sono sicuramente le più interessanti. La prima è l'esperienza delle low profit company, che sono un mix tra compagnie profit e no profit. Si differenziano dalla nostra impresa sociale su un punto in particolare, vale a dire la possibilità di remunerare, seppure in maniera molto ridotta, l'investimento, cosa che nella nostra legislazione l'impresa sociale non prevede. Questa è una delle modalità americane interessanti alle quali guardare. Un'altra modalità interessante, un altro strumento interessante, è quello dei fondi sociali. Ci sono ormai dei fondi specializzati che investono in quelli che si chiamano gli impact investment, cioè quegli investimenti che hanno un impatto sociale. Qua negli Stati Uniti si calcola che l'anno prossimo questo tipo di investimenti raggiungerà 500 bilioni di dollari. Cosa possiamo fare per smuovere? È una piccola modifica alla legge sull'impresa sociale. Se si potesse distribuire un anche piccolo profitto a chi decide di investire, agli investitori sociali, e ce ne sono tantissimi nel mondo ormai, questo diciamo mondo dell'investimento sociale potrebbe svilupparsi. Ecco, e quindi questa, adesso rientrando in Italia, sarà una delle sue missioni, cioè cercare di far passare qualche cosa. Sì, cercare di far passare una normativa su settori che hanno un impatto sociale. Io citavo prima i risparmi che San Patriano ha prodotto per lo Stato italiano. Ecco, si può moltiplicare questo pensando a tutte quelle realtà sociali che in questo momento danno servizi e non costano allo Stato, ma al contrario sottraggono allo Stato il peso di servizi che lo Stato fa fatica a permettersi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo essere apparso con Bill Clinton in un evento che ha raccolto fondi per Barack Obama in Ohio, questa settimana Bruce Springsteen si è prodotto in un'imitazione del presidente americano durante un concerto in Virginia e ha cantato The Rising. On the shoulder head. If my Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!